Sì, di solito appunto i nostri testi sono liberamente scaricabili e in realtà lo sono anche questi perché tutti i post di JAP sono lì nell'archivio di JAP, nel blog. Quindi in realtà potremmo dire che questa è solo una delle possibili antologie di JAP degli ultimi anni, volendo chiunque può comporsi la propria. Questa è un'antologia specifica, è la nostra selezione, o meglio la selezione fatta da Tommaso De Laurentiis, cioè il curatore di questa antologia, che ha scritto anche una lunga prefazione. Insomma, c'era dietro del lavoro per fare questo prodotto elettronico, chiamiamolo così, e quindi ci interessava anche capire appunto se questo lavoro i nostri lettori sarebbero stati disposti a retribuirlo, ecco, pur avendo questi testi già disponibili, anche se in ordine sparso, ecco, spalmati nell'arco di 3-4 anni, e quindi sì, valeva la pena tentare, ecco, dal nostro punto di vista, perché l'editoria ormai è in trasformazione e quindi sarebbe ora, ecco, di cominciare a capire che ne sarà di noi. A questo proposito, voi avete parlato nella presentazione dell'ebook di fine del circolo virtuoso tra la pubblicazione dei libri in digitale e la vendita cartacea. Per molti anni è funzionato. Noi abbiamo appunto sempre parlato di circolo virtuoso perché il libero download dei nostri testi in realtà facilitava e favoriva le vendite in libreria, soprattutto in un paese, insomma, come l'Italia, dove non è che i lettori forti siano tantissimi, anzi, sono abbastanza una minoranza. Quindi in realtà rendere assolutamente liberi e accessibili i testi faceva sì che poi uno andasse in libreria magari a comprarli per fare dei regali o perché gli piaceva proprio avere l'oggetto. Questo ciclo si è spezzato per due motivi. Uno è la crisi economica, ovviamente, che picchia durissimo i prezzi di copertina, i libri sono sempre più inaccessibili, ecco, per le tasche sempre più vuote della gente. L'altro ovviamente è lo sviluppo della tecnologia. Ma credo che la crisi conti in realtà più di tutto. Ci sono pochi lettori e tantissimi titoli e quindi insomma tutti pescano nello stesso piccolo stagno, sempre più piccolo. Il cartaceo, il mercato cartaceo è in passivo, di 10 libri che vengono messi in circolazione ne tornano indietro 6. Il che vuol dire che insomma questi 10 libri vengono trasportati in giro, cioè tutta la filiera viene coperta per poi venderne soltanto 4. È chiaro che ormai il gioco vale sempre meno la candela. Dall'altra parte è anche vero che però le tecnologie di fruizione facilitata degli ebook, cioè gli e-reader sostanzialmente, non sono ancora diffusissimi. Anzi, ancora un'esigua minoranza che li possiede. Quindi, come dire, ci troviamo un po' in un impasse in questo momento, cioè non siamo né di là né di qua, siamo in mezzo a un guado che però, insomma, assomiglia molto a uno stagno, ecco, a acqua ristagnante più che un flusso di corrente. E quindi, insomma, la situazione è critica per tutti.